una scelta politica è una cosa diversa da una scelta ideologica. Quando dico una scelta politica intendo dire che è giusto che il Comune di Roma contribuisca almeno in parte a una diversificazione del mercato, cioè a una migliore concorrenza all'interno del mercato del software. Questa è la ragione per la quale nel nostro nuovo appalto di gara per il portale internet del Comune di Roma abbiamo introdotto con prudenza e con gradualità alcuni applicativi che fanno capo, diciamo, all'open source e a Linux, in particolare la posta elettronica e alcune altre applicazioni che sono legate fondamentalmente ai forum e ad altri meccanismi, diciamo così, di condivisione da parte di chi lavora sul web, quindi software di agenda e altre piattaforme di condivisione. Chi si occupa di queste cose sa bene, il vantaggio dell'open source è che i nostri tecnici, i nostri ingegneri, i nostri redattori internet possono conoscere il codice sorgente e questo permette anche un contributo più attivo, meno piattamente esecutivo da parte di tanti tecnici del Comune di Roma che in questi anni si sono cresciuti e si sono formati. Pensi che noi oggi abbiamo su 27.000 dipendenti più di 9.500 persone che sono alfabetizzate alle tecnologie informatiche e che lavorano abitualmente anche su internet. Noi intendiamo anche condividere con i cittadini questo dibattito, che è un dibattito poi che riguarda anche molti giovani che lavorano in piccole imprese nel territorio cittadino e che sono molto attenti anche a queste forme di innovazione.